Quando incontriamo una persona, solitamente le chiediamo come va. Credo che nel 95% dei casi si tratti di una domanda di circostanza, alla quale segue una risposta altrettanto di circostanza. Va bene, va abbastanza bene, grazie. Ora, se il rapporto è abbastanza superficiale, credo che ci stia sia una domanda superficiale sia una risposta superficiale. Anche perché rispondere magari alla domanda come va? Guarda, mi sta andando proprio male. Credo che metterebbe in imbarazzo l'altra persona, così come magari noi stessi ci siamo sentiti in imbarazzo quando abbiamo chiesto così per circostanza come va e l'altro ci ha risposto: guarda, abbastanza male. Oh cavolo, e adesso che cosa gli dico? Che cosa gli chiedo? Gli faccio raccontare ancora oppure lascio perdere? Diverso invece è il caso in cui siamo più in confidenza, in amicizia con la persona con la quale abbiamo questo scambio di come va oppure come stai. Ecco, già forse la domanda come stai entra un po' più in profondità, non un come va generico, ma un come stai, cioè come stai tu, non soltanto come va la tua vita, ma che cosa stai provando tu in questo momento. Se c'è confidenza, credo che non possiamo accontentarci di rispondere soltanto bene, male, abbastanza bene, abbastanza male, ma non tanto perché dobbiamo per forza dire tutto all'altra persona, quanto credo che sia importante interrogarci facendoci questa domanda. Se una persona mi chiede come sto, saprei rispondere in modo un po' più preciso, andando al di là delle risposte di circostanza? Perché il problema, vedete, non credo che sia tanto in quello che noi rispondiamo, quanto nel fatto che spesso, oppure a volte, noi stessi non abbiamo una profonda consapevolezza di quello che veramente stiamo vivendo, stiamo sentendo, stiamo sperimentando in quel dato momento della nostra vita. Prova ad esempio ad immaginare che alla domanda come va tu non possa rispondere né bene, né male, né abbastanza bene, né abbastanza male. Che tu debba provare a tirare fuori un termine, uno stato emotivo più preciso del bene o del male. Il problema, cioè, è se possediamo un sufficiente vocabolario emotivo e se riusciamo a capire qual è il nostro stato emotivo profondo in un dato momento della nostra vita. Credo che questo sia estremamente importante. In queste riflessioni prendo spunto dal solito mitico Marshall Rosenberg, ideatore del metodo della comunicazione non violenta. Ritorniamo alla domanda iniziale: come stai? Esistono mille risposte possibili, perché mille sono gli stati emotivi diversi che possiamo provare. Non c'è soltanto la felicità o la tristezza, ma ci sono tantissime sfaccettature emotive. È importante esserne consapevoli. Facciamo un esempio. Supponiamo che sei un insegnante e hai un rapporto difficile con un ragazzo della tua classe. Un pomeriggio ti trovi a casa da solo o da sola, hai un attimo di tempo per pensare e ti chiedi: come sto? E dentro di te ti dici: in questo momento sono un po' triste. Ok, sei triste, ma in che senso sei triste? Potrebbero essere tante le risposte in realtà. Potresti sentirti esasperato o impotente perché ti sembra di aver provato in mille modi ad aiutarlo, a relazionarti con lui in modo diverso, ma non sei ancora riuscito a trovare la chiave giusta per entrare in un bel rapporto con lui. Oppure potresti sentirti colpevole perché dopo tanti anni di insegnamento non riesci proprio a trovare la soluzione. Oppure potresti sentirti arrabbiato anche perché con lui spesso non riesci proprio a mantenere la calma, ti fa venire fuori dentro di te certe emozioni veramente molto forti, una rabbia che a volte non riesci proprio a controllare. Frustrato perché ti sembra impossibile che tutto questo ti stia accadendo dopo tanti anni di insegnamento e magari anche infastidita perché pensi che le altre tue colleghe che sanno di questa situazione ti sembra che ti giudichino in una certa misura. Pensi che siano sottigliezze? Io non credo, perché credo che a seconda dello stato emotivo interiore molto preciso che stiamo vivendo in quel momento, potremo di conseguenza mettere in atto delle strategie diverse, a seconda del fatto che ci sentiamo esasperati, infastiditi, arrabbiati, colpevoli o frustrati. Più sapremo identificare con precisione l'emozione che sta alla base del nostro stato emotivo e più sapremo fronteggiarla in modo produttivo. Se questo è vero e utile nei confronti di se stessi, credo che lo sia altrettanto nei confronti degli altri. Rimanendo sempre nell'esempio di prima. Tu sei a casa, ti senti triste, arriva il tuo partner e ti chiede come stai. Se tu saprai raccontargli in modo più preciso l'emozione che stai vivendo, molto probabilmente lui o lei, che è al di fuori di te, quindi che forse vede le cose in modo più obiettivo, a seconda di come saprai descrivergli con precisione ciò che stai sentendo, forse saprà aiutarti a trovare la soluzione più giusta, migliore, il modo migliore per affrontare queste situazioni. Da questo punto di vista, forse potrete dirmi che a volte è proprio il fatto di iniziare a raccontare qualcosa all'altro e lasciarsi aiutare dall'altro potrebbe proprio essere un validissimo aiuto per riuscire a tirare fuori in modo più consapevole, più chiaro quello che stiamo vivendo. Se tutto questo vale per le emozioni negative, credo che altrettanto possa valere e sia importante anche per le emozioni positive. Se tu un giorno ti senti proprio felice, ti senti al settimo cielo, credo che sia importante che tu riesca a capire bene qual è il colore di questa tua felicità, qual è il motivo profondo per cui ti senti così, perché così facendo, riuscendo ad identificare qual è l'emozione che ti fa sentire così bene, ecco che forse potresti capire meglio quali sono i tuoi valori, quali sono le cose veramente importanti per te, potresti capire meglio quali sono le cose che puoi fare per ricreare un domani le stesse condizioni che ti hanno fatto sentire così felice. Ritornando alle emozioni negative, riuscire a dire soltanto sto male sarebbe un po' come andare dal dottore e dirgli disperatamente: dottore, sto male, mi aiuti, la prego. Ma come fa il dottore ad aiutarti se non riesce a capire qual è il sintomo preciso che tu stai vivendo, che tu stai provando in quel momento? Ecco che allora, se tu riuscirai a dirgli sto male perché mi sento così e cosà, sento questo particolare punto del corpo che mi dà fastidio, allora ecco che lui riuscirà ad aiutarti a formulare una diagnosi più precisa e a darti di conseguenza i rimedi di cui hai più bisogno. Allargare il nostro vocabolario emotivo ci può servire sia a stare meglio con noi stessi, sia a comunicare in modo più profondo con gli altri. Quindi la prossima volta che ti chiederanno come stai, magari rispondi pure bene, grazie, oppure abbastanza bene, ma non appena sei da solo, prova a rivolgere nuovamente a te stesso questa domanda e prova a vedere più in profondità il motivo per cui ti senti bene o ti senti male. Anzi, non dobbiamo attendere che siano gli altri a chiederci come stiamo. Chiediamocelo più spesso, più frequentemente noi stessi, perché se riusciremo a leggerci dentro in modo più profondo, riusciremo anche a stare meglio con noi stessi e con gli altri. Ti restano ancora tre cose da fare. Lascia un mi piace se il video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la fatidica campanella per non perdere nessun aggiornamento. Al prossimo video!